Partendo da una tra le centinaia di piccole radio libere che sono sorte su e giù per l'Italia negli anni 70, Paolo Lunghi traccia la storia non solo di un'emittente, ma di una piccola rivoluzione culturale. Quella delle radio libere fu un sommovimento sociale di cui i stessi protagonisti non erano del tutto coscienti. Erano partiti, come narra il libro, per divertirsi, per trovare nuovi modi di comunicare e hanno cambiato il mondo. L'esperienza diretta era dunque il modo migliore per raccontare, partendo dall'antenna montata su un tetto di Empoli e dal trasmettitore installato nel garage della nonna dell'autore. I protagonisti di Radio Empoli International erano, malgrado il nome, ragazzi italianissimi, toscani ed empolesi prima di tutto. Di internazionale c'era solo la musica, travolgente di quell'epoca, e il loro desiderio di aprire una finestra sul mondo. I conduttori erano assolutamente privi di esperienza, ma qualche idea, come scrive Lunghi, ce l'avevano e evidentemente anche talento. Le radio libere furono infatti una vera fucina di nuovi talenti, in campo mediatico ma non solo. Con le radio libere il mestiere di agente pubblicitario decolò, ma nacquero anche nuovi modi di far politica, nuove esperienze giornalistiche e soprattutto nuovi spazi di libertà. La libertà dai padroni, dai poteri vari del mondo della politica e dell'impresa. Era questo l'aspetto più coinvolgente dell'esplosione delle piccole radio locali.